Elba, 11 luglio 1967. Care Eleuterio, sono qui con il cuore pieno d'angoscia e gli occhi pieni di mare. L'angoscia dipende da te, Eleuterio. Il mare dipende dal secchiello di un bambino che è passato. Sei un cretino, Eleuterio. Lo leggo scritto sul mio piccolo cielo rosso e blu a striscioni. No, non sono pazza. Sono soltanto sdraiata con la testa sotto l'ombrellone. E io penso che gli ombrelloni non sono che tamburelli sui quali il sole ritma coi suoi raggi la canzone dell'estate. Mi hai detto cose dure, Eleuterio, e te ne sei andato. Solo per una prenotazione di posti alla Rivieretta. Ma sabato, quando verrai, ne parleremo a lungo. E la mattina beviti l'uovo, sempre tua. Roma, 12 luglio 1967. Irrecuperabile, sempre mia. Non fai mai le cose giuste. Invece di startene per ore sdraiata con la testa sotto l'ombrellone, stai per mezz'ora soltanto sdraiata con la testa sotto l'acqua. Non importa se avrò una data di più da ricordare con costosi mazzi di fiori. Hai perfettamente ragione. Non si litiga per una prenotazione di posti alla Rivieretta, anche se la Rivieretta, pur avendo un nome italiano, è un albergo situato nelle Hawaii e le prenotazioni di cui parliamo sono per un soggiorno di una settimana per 6 persone. Non si litiga, incontrollabile sempre mia. Si immagina di avere per moglie una damigiana di benzina e con un cerino. Ormai è fatta. Eleuterio, ho scritto. Ma che razza di uova mi hai lasciato in frigorifero? Da qualunque parte le buco per berle, mi viene sempre in bocca l'albume che odio, anche se le buco di sotto. Elba, 13 luglio 1967. Cara Eleuterio, gattucolo, nota la scarsa importanza che do al vezzeggiativo pseudo-affettuoso. Sono qui con il mare di sotto. No, Eleuterio, non sono in elicottero. Come potresti pensare, ho il mare di sotto perché faccio il morto a galla. Eleuterio, lo so che cosa stai pensando, che a galla è in più. Bruto! Qui si parla ancora della meravigliosa festa di sabato scorso e delle fortunate che hanno vinto il soggiorno alle Hawaii. Vedo la spiaggia piena di sdraio. E io penso che le sdraio non sono che variopinti recipienti per contenere la pigrizia umana. Sempre tua. Roma, 14 luglio 1967. Inconcepibile sempre mia. Se lì si parla ancora di feste e di soggiorni alle Hawaii, io resto qui, dove non se ne parla e dove, non parlandone, si può dimenticare la cosa. E se quando verrò sabato lì qualcuno pronuncerà la parola festa, il terremoto di Messina diventerà, al confronto di ciò che farò io, una pioggerellina di marzo. Parli di feste e di soggiorni, senza entrare nei particolari, li hai forse dimenticati? Io ancora no, e ci provo a dimenticarlo, parola mia, Eleuterio. Elba, 15 luglio 1967. Caro Eleuterio, micione, sulla spiaggia stamattina due uomini stanno mettendo ad asciugare le reti. E io penso che le reti non sono che acchiappa farfalle per pescatori. Certo che ricordo i particolari, Eleuterio. Non ci entro per ragioni di diplomazia, ma le ricordo esattamente. Sabato scorso tu e io stavamo guardando il mare dalla finestra del salone. È scesa la sera, Eleuterio. È scesa? Sì. E devo dire che le tue constatazioni sono sempre di una precisione che stupisce. Poco fa, infatti, quando la pendola ha suonato le 9, tu hai meditato un po' e poi hai constatato: sono le 9, Eleuterio. Cosa volevi che dicessi? Che erano le 8? No. Ma perché i tuoi genitori non si sono limitati ad un lungo, tenero amore platonico? Perché? Eleuterio, non ti permetto di parlare della intimità dei miei genitori. Hai notato, Eleuterio, che quando scende la sera tutto intorno è buio? No, ti giuro che non l'avevo notato. Beh, facci caso. Io penso che il buio è la tintarella del giorno. Io penso che tu... Eleuterio? No. Allora penso che quest'albergo non è il luogo tranquillo che avevano detto. Che fa tutta questa gente? La festa, Eleuterio. C'è l'elezione di Miss Due Pezzi. L'introito della serata andrà a beneficio dei gatti disagiati. Non mi dire che dovrò comprare dei biglietti per beneficenza. No, Eleuterio, no. Però dovrai prestare la tua opera, come abbiamo fatto un po' tutti del resto. Io ho offerto il soggiorno alle prime tre classificate. Il soggiorno? Qui in albergo? No, Eleuterio, non si offre un soggiorno nel posto dove già si soggiorna. Sarebbe come dire ti pago il conto, non è chic. Ho prenotato un soggiorno di una settimana per 6 persone per le prime 3 classificate. E dove sei lecito? Hai presente le isole Hawaii? Beh, in una di quelle, all'albergo Rivieretta. Eleuterio, quando mi guardi con gli occhi iniettati di sangue non mi sei simpatico. Mettiti il collirio. Senti, se tu credi di prestare la tua opera per i gatti disagiati buttando sull'aste come ti sbagli. E in che altra maniera, scusa, dovrei prestare la mia opera? Mettendoti alla cassa a distribuire i biglietti d'ingresso. Alla cassa? Sì. Non nella giuria a classificare le due pezzi. No, alla cassa. Io che non so fare i conti, con il rischio di un ammanco finale. Non ci possono essere ammanchi, Eleuterio, non ci sono conti da fare, i biglietti sono stati già comprati tutti in blocco. Ah sì? E da chi? E chi è il deficiente che fa di queste cose? Chi vuoi che sia? Tu, micione. Io? E allora sbrigati. Organizza subito la festa di beneficenza per i micioni vedovi. Perché da domani noi due ci parleremo solo attraverso il tavolino medianico, al quale sarò seduto io, sia ben chiaro. Smettila o ti denuncio per minacce. A mano armata. Posa la bottiglia. Del resto tutte le signore hanno offerto qualche cosa. Chi l'addobbo, chi l'aperitivo, chi i fiori, perché io ho offerto qualche biglietto da 2.000 lire. È un soggiorno per 6 persone. E perché per 6 persone? Se le vincitrici saranno 3. Non vorrai mica mandarle sole quelle povere figliuole, no? Eleuterio, metti giù quel tavolo! Eleuterio, ti guarda! Voglio Sansone, tutti quelli là! Eleuterio. Vogliono tutti! Questa festa Eleuterio, non si ha da fare! Lampadario, Eleuterio, fermo! Stavamo guardando il mare dalla finestra. Tu ed io, quando improvvisamente, solo per una prenotazione alla Rivieretta, è successo tutto e sei ripartito. Oggi è un altro sabato e stai per tornare. E io che sono diplomatica e comprensiva, farò finta di niente. Ti verrò incontro sorridente. Ciao. Ben arrivato, Eleuterio. C'è di là quello dell'agenzia di viaggi per il conto dei biglietti di aereo per la Hawaii. Ce ne sono 2 di più di 6. Ho mandato su anche la mamma e il babbo. Poverini.